in primo piano. Giovedì 9 settembre 2010, e allora è la politica ancora che domina sui giornali, ma ha molte aperture anche su quello che è successo ieri, un episodio di una gravità inaudita, l'aggressione anche fisica al segretario della CISL Bonanni. Come abbiamo sentito, voleva parlare alla festa del PD a Torino. Anche il Sole 24 Ore mette la politica in primo piano. Bossi, Lega pronta alla sfiducia. Questo è il titolo di apertura. Berlusconi insiste, andiamo avanti. Così il Corriere, Berlusconi, io vado avanti, ma c'è anche, in ampio risalto, Fumogeni e urla contro Bonanni. La Repubblica, Berlusconi cambia idea, no al voto. Per la stampa invece Torino, aggredito Bonanni. Il Giornale, quante escort in Parlamento, questa dichiarazione di una deputata, Angela Napoli, finiana, che fa discutere. Per Libero, Bossi kamikaze antifini. Per Il Fatto, l'8 settembre del Caimano, mentre l'Unità punta proprio sull'aggressione a Bonanni, con una foto delle fasi più concitate, livello di guardia, questo è il titolo. Vedremo anche altri titoli, anche sul Manifesto, per esempio c'è Bossi, un urlo di Bossi in primo piano col titolo Secesso, invece che secessione, è la rottura, è il tema politico dell'accelerazione della Lega, che continua a insistere sia alle elezioni, mentre Berlusconi ora sembra frenare, ma vedremo dopo le 7.30, perché come di consueto io voglio iniziare da qualcosa di un po' diverso prima della pubblicità. Voglio tornare a quello che ieri ho letto, l'idiota del giorno, vale a dire questo reverendo che in America, il pastore Battista Jones, che in America ha detto l'11 settembre, cioè sabato, bruceremo 200 copie del Corano, suscitando un'attenzione da parte di tutto il mondo, perché davvero c'è grande tensione per le possibili conseguenze. Fermate il reverendo Jones anche sul Sole 24 Ore, pagina 10, con però incredibilmente il sindaco Bloomberg di New York, che dice è un suo diritto costituzionale pubblicamente bruciare il Corano in occasione della ricorrenza dell'11 settembre. Tra l'altro, sindaco Bloomberg, che è con grande attenzione monitorato, perché è a New York, laddove il presidente americano Obama ha detto sì alla costruzione di una moschea a Ground Zero. E oggi, tra l'altro, Repubblica ospita l'intervento di Faisal Abdul Rauf, vale a dire colui che è il promotore del progetto del centro islamico che sorgerà a Ground Zero. Avete visto, insomma, lì c'è un presidente americano, Obama, che dice dove ci hanno abbattuto le Torri Gemelle, facciamo una moschea per la libertà di espressione e la libertà di espressione religiosa. Qui in Italia c'è grande, grandissima discussione sulla costruzione delle moschee nelle nostre città. Che ne pensate? Ripeto il nostro sondaggio. Fausto Biloslavo sul Giornale ci fa sapere che questo pastore Terry Jones della Florida ha 50 seguaci, cioè sta mobilitando mezzo mondo con Hillary Clinton, sostanzialmente il ministro degli esteri americano, che dice siamo sconvolti anche per le conseguenze che potrà portare, a 50 seguaci. Questo signore che sul sito suo vende libri, gadget, fa campagne contro gli omosessuali, contro i politici locali. La figlia di Primo Letto lo definisce come uno che anche usava violenza mentale, diceva sempre che se non obbedivamo a lui Dio ci avrebbe punito. E va bene, insomma, per il secondo giorno e fino a sabato, chissà cosa succederà, se alla fine recederà da questo proposito, ma certo ormai qualche danno l'avrà provocato. Prima però della pubblicità, io voglio anche ricordare una pagina che troverete solamente sul Corriere della Sera. È un'anticipazione di quello che oggi vedremo, se vorrete, alle 23.50 su Rai 2, La storia siamo noi di Giovanni Minoli, dedicata alla vicenda Ambrosoli, a Giorgio Ambrosoli, che è un avvocato milanese esperto in liquidazioni, fu ucciso l'11 luglio 79 da un sicario ingaggiato dal banchiere siciliano Michele Sindona. Ebbene, sapete in questa ricostruzione della storia siamo noi che cosa vedrete questa sera? Vedrete Giulio Andreotti che dice testuale così, alla domanda perché Giorgio Ambrosoli è stato ucciso, Sentite la risposta di Andreotti. È difficile. Non voglio sostituirmi alla polizia o ai giudici. Certo, è una persona che in termini romaneschi se l'andava cercando. Ambrosoli se l'andava cercando. Questo è il titolo e la dichiarazione sicuramente molto interessante di Andreotti, che tra l'altro ricorda il Corriere ha mantenuto su questo argomento una ambiguità da sempre. Andreotti definì Sindona l'uomo che salvò la lira, il salvatore della lira. E questa ambiguità del senatore che elogia ancora Sindona e non l'avvocato eroe, questo è il titolo del commento di Corrado Staiano, è certo spunto per la polemica. Il caso in TV, Ambrosoli è morto perché se l'andava cercando. Così parlò Giulio Andreotti. La pubblicità. Alle 7:34 minuti, eccoci ancora qui in diretta. Beh, davvero, ancora sono colpito dalla frase di Giulio Andreotti che vedremo questa sera nel programma di Minoli sull'uccisione dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, ucciso da un sicario di Sindona. Si parla di vicende del 79 che affondano, che però sono la base della nostra Repubblica. Cosa ha detto Andreotti alla domanda perché è stato ucciso Ambrosoli? In romanesco, in termini romaneschi, era uno che se l'andava cercando. Questo ha detto Andreotti. Ma veniamo alla politica, che è il tema principale ancora in questi giorni. Però, guardate, secondo me la notizia veramente più importante di ieri è quello che è successo in serata. L'aggressione, anche fisica, con un fumogeno lanciato al segretario della CISL Bonanni, che non è riuscito a parlare, alla festa del PD a Torino. Fuoco sul giubbotto potevano rovinarmi. A pagina 3 del Corriere della Sera e anche un Bonanni, scrive Enrico Marro, che parla al telefono con la voce non quella di sempre, un'incertezza, ancora sotto shock, vuole sapere che è successo, dei delinquenti, dei centri sociali hanno imposto il silenzio rispetto al dibattito e alla democrazia, questo è successo. Se mi prendevano ai capelli, invece che al giubbotto dove ha un buco, che c'è anche una foto del giubbotto con un buco di almeno 5 cm di diametro, una cosa molto, molto impressionante. Se mi prendevano al volto, ai capelli, certo potevano rovinarmi. Parla anche alla stampa con anche Enrico Letta, che era sul palco, e l'abbiamo sentito anche nel GR accusare, insomma, sembriamo sull'orlo di un paese sull'orlo della guerra civile, dice Enrico Letta. In questa intervista a Carlo Bertini a pagina 3 della stampa ci sono le foto del tentativo di aggressione molto convulsa. E chiaramente la situazione da questo punto di vista è molto delicata anche per le tensioni nel nostro paese, tanto che Alberto Rioli in prima pagina del Sole 24 Ore, manifestando solidarietà al segretario della CISL, scrive: Raffaele Bonanni, nel suo commento dal titolo Il fumogeno non coprirà il coraggio dei riformisti, Raffaele Bonanni ha il torto di essere un sindacalista che firma le intese e le difende nelle assemblee, anche di fronte a chi non è d'accordo. Non sfugge la dialettica, crede nei suoi argomenti, tenta di creare consensi anche quando l'aria si fa difficile, ma di fronte all'intolleranza nemmeno un abruzzese tosto può fare molto. Il dissenso è enzima in democrazia, scrive Orioli, ma tappare la bocca, insolentire, farsi forte tra bulli è il contrario del dibattito. Sono tempi di tensione, servirebbe essere seri anche da parte di chi fa per mestiere il commentatore sui giornali. Che senso ha, scrive Orioli, ad esempio, scrivere sul Manifesto al termine di un corsivo contro l'ex ministro Cesare Damiano, ex segretario della FIOM, colpevole di aver aperto le richieste di Sergio Marchionne? Che senso ha, scrive, datemi un martello? Un martello per fare che? Per darlo in testa a chi non mi va, come cantava Rita Pavone? Insomma, questo scrive Alberto Rioli. Oggi proprio in realtà sul Manifesto, in prima pagina, c'è un piccolo corsivo dal titolo Il fumo e l'arrosto, che recita così: fischi e anche un fumogeno lanciato sul palco alla festa del PD che sfiora Raffaele Bonanni. Beh, più che sfiora, a giudicare dalla foto l'ha proprio colpito nel giubbotto. Alcuni giovani nei centri sociali torinesi non si sono limitati a gridare venduto, hanno impedito al segretario della CISL di parlare, un gesto stupido che rovescia perfino il fine che forse i contestatori si erano dati, condannare e isolare una pratica sindacale giudicata subalterna al governo, alla Confindustria e alla Fiat. Così si è santificato l'avversario, costruendogli intorno una solidarietà più ampia del consenso alle sue politiche. Tutti devono poter dire la loro liberamente. Dunque, si condanna il gesto, ma si dice anche no alle strumentalizzazioni più avanti. Si sta strumentalizzando e cercando di esasperare il conflitto. Per la verità, anche l'Unità che vi apre con il titolo di prima pagina a livello di guardia, c'è il commento del suo direttore Concita De Gregorio molto duro, senza se e senza ma. La differenza che passa tra fischiare qualcuno che si intende contestare e tirargli addosso un candelotto acceso è la misura precisa del punto in cui finisce la civiltà. Non c'è proprio niente da questionare, nessun distinguo da fare, non ci sono se, non ci sono ma. Non possiamo ammettere, nessun uomo può farlo, che la parola di chi che sia sia spenta col gesto violento di una mano. Su questo, sulla repulsione della violenza come forma di protesta, deve levarsi adesso un coro unanime da ogni parte politica. Chi non sarà in grado di farlo con chiarezza può accomodarsi fuori adesso, fuori dalle porte di un paese democratico, fuori dalla legalità, fuori. Anche Michele Serra parla nel suo commento diritto di parola in prima pagina di Repubblica della condanna, parla di condanna di questo gesto. Insomma, il clima sociale è anche questo. Gianpaolo Pansa, uno scrittore, giornalista che da tempo va dicendo, e lo ribadisce anche oggi sulla Stampa in una piccola dichiarazione, attenzione perché io ho visto già da qualche tempo i germi di quello che erano gli anni 70 in quello che sta succedendo. Certo, quello che è successo ieri è davvero di una gravità inaudita. Ne parleremo anche con Antonio Di Pietro, che sarà nostro ospite alle 8:20 per l'intervista di questa vicenda e dell'attualità politica, perché insomma questa, ovviamente in maniera molto violenta, di ieri è solo l'ultima in ordine di tempo in questi giorni di contestazioni, alcune a Schifani, oppure abbiamo visto a Dell'Utri, insomma contestazioni abbastanza plateali nei confronti di chi voleva parlare a un dibattito pubblico, anche se c'è ovviamente contestazione e contestazione. A questo proposito, a pagina 3 del Sole 24 Ore, Nicoletta Picchio raccoglie quello che è il parere, non su questa vicenda, ma insomma collegata a questa, perché è collegata, secondo almeno i contestatori, alla vicenda anche delle tensioni sociali, la vicenda dei rapporti Fiat, delle relazioni industriali che coinvolgono la Fiat. Raccoglie Nicoletta Picchio il parere del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ieri commentava, leggeva i dati del World Economic Outlook inaugurando il Salone del Tessile a Milano, Milano Unica. Bisogna creare più competitività, ha detto Emma Marcegaglia, altrimenti le nostre aziende non riescono ad essere forti, a conquistare i mercati mondiali, non ce la fanno le imprese, così non ce la fanno i lavoratori. E poi ha parlato della FIOM. Per la Marcegaglia la disdetta del contratto da parte di Federmeccanica è un atto di chiarezza, piuttosto il problema vero è la FIOM, che non accetta nessun cambiamento nelle relazioni industriali per rendere le imprese più competitive. Questo lo trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Io sono partito da questo perché secondo me è l'episodio più importante della giornata che trovate sviluppato sui giornali, avvenuto ieri in serata. Ma certo, questa aggressione molto fisica, molto intensa ai danni di Raffaele Bonanni fa riflettere molto. Per venire poi alla politica. Allora, la politica si incentra, e qui trovate paginate ovviamente di commenti e di articoli, di retroscena, si articola su questa domanda che fa il Foglio in prima pagina. Perché la Lega insiste a dire per il terzo giorno consecutivo le elezioni e Berlusconi invece frena ora? Umberto Bossi fa molto chiasso, conferma il proprio stile politico, scrive il Foglio. Fondato sulla butada, ieri le canottiere, oggi le pernacchie, sempre toni perentori. Ha fatto una pernacchia a Fini, Bossi, no? Cioè in risposta a Fini. Ma la china presa dalla maggioranza di governo è pericolosa. Nel PDL cercano di decodificare l'intemperanza leghista. La domanda è: perché Bossi si agita proprio adesso e con rinnovata intensità? Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Foglio, Berlusconi, attraverso i contatti di Gianni Letta col Quirinale, si sarebbe convinto che Napolitano, contrarissimo al voto a breve, potrebbe invece dimostrarsi più disponibile a concedere l'appuntamento con le urne nella primavera del 2011, una tempistica favorevole al PDL che nei mesi a venire sarebbe messo nelle condizioni di tentare un recupero almeno parziale dei propri eletti alla Camera. Ecco, questa sarebbe la lettura del Foglio, cioè una Lega che accelera le elezioni subito, anche a novembre, e un Berlusconi che ora invece frena. Berlusconi: voglio governare, convincerò il Carroccio. Questa è la linea che è uscita dall'ufficio del PDL di presidenza ieri, con anche il ribadito tentativo, e lo dice anche Ignazio La Russa nell'intervista che concede al Corriere a Fabrizio Roncone, di trovare dei voti in Parlamento, come si diceva ieri. La Russa, per carità, dice: non usate la metafora campagna acquisti perché non c'entra nulla, ma cercare di convincere tutti quegli onorevoli, alcuni dell'MPA di Lombardo, alcuni del Sud Tirol Fospartai, Villari che era del PD pare l'abbiano già convinto, cioè cercare di convincere a sostenere, magari quando Berlusconi andrà a fare il discorso alla Camera a fine mese, a sostenere con 300, servono 316 voti certi, il governo, così da fare a meno dei Fignani. Ci riuscirà? Lo vedremo, ma continueremo la politica dopo le informazioni sul traffico. E Fini esulta: per fortuna qualcuno ha sale in zucca. Questo è il virgolettato che Amedeo La Mattina della Stampa attribuisce al presidente della Camera, perché Fini avrebbe detto: finalmente si è capito che non bisogna... non bisogna votare. Chi avrebbe sale in zucca è Gianni Letta, secondo Repubblica. Infatti ieri ci sarebbe stata una telefonata proprio tra Gianni Letta e Fini, di questi toni. Senti Gianfranco, ha chiesto Letta, ma davvero, come ha detto Mirabello, voi votereste la mozione che presentiamo in Parlamento? Certo Gianni, lo confermo. È uno scudo giudiziario per il Presidente del Consiglio? Come ho già detto, lo vogliamo sicuramente e lo votiamo a patto che non ci ripresentate la norma sul processo breve. E quindi questo sarebbe il pontiere Gianni Letta che avrebbe convinto, e così anche Fedele Confalonieri, dice Repubblica, che avrebbero convinto Berlusconi a dire: no, non accelerate, non andate al voto. Anche se la notizia politica più interessante di questo ufficio del PDL la trovate sul Secolo XIX, solo lì, perché che t'ha fatto Berlusconi, secondo il Secolo XIX, ha richiamato Claudio Scajola. Ebbene sì, quello della casa al Colosseo. Molla tutto, vieni subito al vertice, ho bisogno di te. Appena tornato da Roma, Scajola ha ricevuto questa telefonata: sono appena rientrato, devo ripartire, vieni subito, annulla tutto, voglio che questa sera, cioè ieri sera, ci sia anche tu. E Marco Menduni del Secolo dice: Scajola ha preso ed è rientrato subito a Roma. Non è secondaria questa cosa, no? Berlusconi, che certo non aveva sostenuto con tutte le polemiche gli acquisti dopo la conferenza stampa di Scajola, se qualcuno ha acquistato casa mia insaputa gliela farò pagare, insomma lo scoprirò, e certo l'inchiesta poi non ha fatto nessun passo ufficiale, almeno che si sappia dai giornali, cioè Scajola non è mai stato neanche indagato, ma certo si era dovuto dimettere, si era stato isolato politicamente. Berlusconi ha alzato il telefono e l'ha chiamato immediatamente a Roma, e Scajola, secondo il Secolo, ha partecipato a Roma, o comunque ha partecipato all'ufficio di presidenza, o comunque è rientrato subito a Roma per dare aiuto a Silvio Berlusconi. Oh, il livello politico però è quello anche degli insulti. Abbiamo parlato molto dell'onorevole Angela Napoli, che a Klaus Condicio, a Klaus Davi, ha detto: non escludo che ci siano persone, donne, che si siano prostituite con l'attuale legge elettorale per ottenere un seggio in Parlamento. Ovunque, prostitute tra le elette, la Napoli sotto accusa. Per il giornale: dai Fignani attacco sessuale alle donne PDL. Addirittura per Libero: futuro e libertà passa all'insulto, cani e puttane. Questo è il clima del rapporto all'interno della maggioranza. Puttane è riferito ovviamente alla questione dell'Angela Napoli, mentre cani è perché Filippo Rossi di Fare Futuro web magazine vicino a Fini, ha definito gli ex compagni di avventura di AN che oggi stanno con Berlusconi il cane da guardia bavoso, bavoso di un potere detenuto da altri. Il padrone dei cani ovviamente sarebbe Silvio Berlusconi. A proposito però di donne e quello che Angela Napoli ha detto, io non posso non citare quello che il Fatto Quotidiano, perché è una cosa che il Fatto Quotidiano dice, abbiamo scoperto noi, con Marco Lillo, pubblica pagina 7. Papi padrone di casa, le ragazze inquiline di Berlusconi. Ci sono alcune ragazze, donne, che attualmente fanno politica vicino all'entourage di Berlusconi e che, dice il Fatto Quotidiano, ha scoperto, vivono in case, in appartamenti del premier. Un caso? Si chiede il Fatto Quotidiano. Per esempio, il primo caso che viene citato è quello di Raffaella Pasquale. Per l'esattezza, Raffaella Pasquale, il Fatto Quotidiano ha scoperto che la ragazza napoletana eletta consigliere provinciale a Napoli abita in un appartamento a Roma di Silvio Berlusconi, è inquilina dell'immobiliare Due Ville SRL, partecipata al 40% dalla Dolce Drago di Berlusconi e il 60% dalla holding prima e dalla holding ottava, due delle 22 società omonime che controllano la Fininvest. E poi scrive Marco Lillo, Berlusconi non è nuovo ad acquisti immobiliari a Roma, nel 2004 comprò un attico alla Balduina dove la conduttrice della Rai Sonia Gray abitava in affitto. Per la sua vecchia fiamma Virginia San Just nel 2006 spese 2.250.000 euro per un appartamento in Campo dei Fiori. La storia di Francesca Pasquale, non Raffaella, Francesca Pasquale assume anche un risvolto di interesse pubblico. Tra l'altro vanno al citofono proprio a suonare Marco Lillo, risponde Catuscia Pasquale, la sorella, che dice Francesca non c'è. E alla domanda, ma sa che vive in una casa di Berlusconi? Dice, ma cosa dice? La casa non è di Berlusconi, è in affitto da un anno, qui mia sorella non mi ha detto assolutamente nulla. Ma poi ci sono anche altri casi. Emanuela Romano, assessore a Castellammare di Stabia dal 2010, diventa celebre però il 28 aprile 2008 quando il padre si cosparge di benzina come un bonzo sotto Palazzo Grazioli minacciando di darsi fuoco se Silvio non provvede a sistemare la figlia. Poi Virna Bello, bionda, pienotta, che si autodefinisce la Bracciolona, oggi assessore a Torre del Greco, e vengono citate in questo articolo. Tra l'altro Raffaella Pasquale viene anche citata nel 2006, dice Marco Lillo, divenne famosa, laureata per i suoi balletti ancheggianti a Telecapri, nella trasmissione Telecafone, che è molto cliccata su YouTube, cantava questa canzone, se mostri un po' la coscia si alza l'auditelle. Se muovi il mandolino si alza l'auditelle, se abbassi la mutanda si alza l'auditelle. E vabbè, anche la politica, anche questa, io sono in rapida conclusione, che dire, si può citare molto anche di politica, di quello che sta succedendo a Palermo, secondo Gian Antonio Stella, sprechi di denaro, ma no, voglio concludere così, leggendo velocemente ciò che Claudio Amendola, in prima pagina del Messaggero, scrive, oggi ripartono i Cesaroni, la polemica, noi Cesaroni e l'ostilità leghista. Per caso qualche romano ha polemizzato sul serio quando è uscito il film Padano Barbarossa? Eppure non era certo un capolavoro. La polemica è che la Lega, ha detto i Cesaroni, non rappresentano l'Italia. Conclude dicendo Claudio Amendola, sapete, vogliamo tagliare la testa al toro? Realizziamo una serie in cui si è parlato l'anno scorso. I Brambilloni. Fatela. C'è caso che esca bene, che faccia i nostri ascolti e parlando padano piaccia a quelli a cui non piacciamo noi. Io da romano vivrei bene lo stesso. Anzi, sarei contento del risultato di un altro gruppo di lavoro. Si sa, la filosofia spicciola di Roma ha 2763 anni, ma funziona ancora e aiuta tanto. Così Claudio Amendola, speriamo chiuda la polemica sui Cesaroni che oggi ripartono.